Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, li abbiamo. Stasera bella, no? No, vincendo il no. Ma, no, ma i costituenti stessi hanno detto riformatela, per carità. Loro stesso hanno auspicato. Dovete riformarla la seconda parte. Prima o poi. Questo è il momento. Prima o poi. È il momento. Poi c'è la maniera di migliorarla, ma se non si parte, non è così dice, ah, se non la riformo la riformeremo. No, non accadrà mai più. Indispensabile che vinca il sì, scherziamo. È indispensabile. Se vince il no, perché c'è chi dice se vince il no è un disastro? No, ma se vince ma il no rimane. Immagini qua il giorno dopo che ha vinto il no, ma il morale, vabbè, poi diciamo, sì, peggio della Brexit, come si dice, ti do tutti, peggio della Brexit, addirittura. Possiamo stare sereni, sia che vinca il sì, sia che vinca il no. No, possiamo stare sereni se vince il sì. Ma sereni, come ha detto Renzi a Letta, Enrico, stai sereno e poi... No, o sereni... No, bisogna pensare, come si dice, al bene degli italiani. Così parlò Roberto Benigni. Io non ho capito, cioè sono un po' confuso, perché... Da una parte mi viene da dire, ma perché Roberto Benigni non può avere una sua idea? È convinto che bisogna votare sì e vabbè, dice che bisogna votare sì. Sì, dire, ecco, è peggio della Brexit, l'ha detto un po' col tono guascone alla Benigni, poi ridendo, peggio della Brexit se vince il no. A parte che la Brexit al momento non è che ha creato le cavallette che ci invadono, no? Non è che ha creato, ci sono le piaghe d'Egitto? No, no, al momento no. Vabbè, chiedevo, guardavo Peter Vescapelo, ho visto con la sua faccia sonnata delle 5.32, anzi 6.32, ma lui è sveglio ed è qua dalle 5.32, e mi ha rassicurato che è tutto a posto. Quindi da una parte Benigni può avere le idee che vuole, dall'altra parte mi chiedo effettivamente è quello che ha scritto lo spettacolo, la Costituzione più bella del mondo, l'Italia, che poi... La vera minchiata è questa, cioè definire la Costituzione italiana la più bella del mondo. Avrà fatto i paragoni con la Costituzione polacca, belga, francese, americana, argentina, quella cilena, quella australiana, le conoscerà tutte, no? Per fare un raffronto e dire la più bella del mondo è l'italiana. Sembra quell'orgoglio italico un po' bizzarro. Per cui non so, sono un po' indeciso. Certo, la sicumera con cui Benigni difende il sì, ma non lo so, perché l'accusa è lo fa per la carriera. Ma quale carriera? Ha fatto tutto ormai, che carriera deve fare ancora? Ma comunque da un certo punto di vista io dico, ma che polemica c'è? Benigni è per il sì e dice sono per il sì, punto. Certo, io, ecco, se arrivasse qui piombasse uno straniero, tra poco mi capiterà a casa perché da ottobre devo ospitare un ragazzo dello Utah per un paio di mesi. Ecco, La prima cosa che gli spiegherò è proprio questa, cioè non c'è modo migliore per spiegare l'Italia. Gli dice, ma mi spieghi l'Italia attraverso un'immagine? Ecco, ecco, l'Italia è questa, è un paese in cui c'è un referendum tra poco e c'è un ricorso al TAR sul quesito del referendum. Io credo che non esista immagine plastica più bella e sintetica e perfetta di questa per spiegare come l'Italia. Vabbè. Allora, sono le 6:35 minuti. Intanto voglio salutare Carla Rocchi. Buongiorno Carla Rocchi, come sta? Buongiorno cari, state bene? Presidente nazionale dell'ENPA, noi benissimo. Gli animaletti tutti a posto? Le bestioline? Le bestioline? Tutto a posto, sì, le bestioline. Le bestioline sì. Stanno bene. Sì, le bestioline, proprio tutte nel mondo, tutte in maniera globale. Vabbè, lo spero, non sono sicurissima, penso. Va bene. Lei ha un po' di raffreddore invece, sento. Sì, fa freddolino stamattina. Fa freddolino, questa sì. Città adesso sta vicino al gelo polare della Russia. Questa città sì. Ha avuto tutto, adesso sta gela pure. Sta a Roma, notate, sta a Roma. Sta a Roma. Va bene, ma insomma noi abbiamo sbrandato letteralmente il nostro amico Maurizio Bianconi, parlamentare. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come va? Perché quando ho sentito Benigno ho detto chiamatemi subito Bianconi, che devo un attimo capire. Bianconi, apriamo subito il Parlamento, va, perché io... Sì. No, ragazzi, una se cosa... uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, è gente, nella sigla, Bianconi, perché abbiamo trovato Renzi e il caffè, quindi caffè, il Parlamento per il caffè... Non è una cattiveria, è perché... No, ma lo date sempre. Sì, appunto, è perché abbiamo trovato una... Perché c'era anche quella sulla Boschi, c'era anche la sigla con la Boschi che andava a prendere il caffè. Boschi. C'era anche la Nicole Minetti, un tempo abbiamo trovato una frase. Sono... Le meteore. Allora, Benigni, toscano come lei, toscano. Sì. Tra l'altro nella sua Arezzo aveva fatto. Lui è nato a Castiglione Fiorentino, sì, sì. No, ma nella sua Arezzo ha girato La vita è bella, giusto? Sì, ha girato lì La vita è bella. Piazza meravigliosa, no? Questa piazza meravigliosa. Perché non può dire che sta per il sì? Cioè, non... Lui può dire quello che vuole. Appunto. E allora? Lo può dire e si sputtana, ma non è che... Perché allora adesso uno che dice una sì. Cosa e poi ne paga le conseguenze. Ma perché uno che è per il sì si sputtana, l'ho capito. No, a parte il fatto che vale sicuramente quello che dice Carozza in ordine alla riforma costituzionale, come le sa Carozza ha detto in maniera opportuna circa la riforma Renzi-Boschi, c'è chi vota sì e c'è chi invece l'ha capita. E quindi lui vota sì e quindi non l'ha capita, però e quindi è legittimo che lo faccia. Sì. Ha suscitato, come posso dire, questa sorpresa perché era sempre quello che... Per il no. Vantava l'immodificabilità della Stati Uniti. Sì. La più bella Costituzione del mondo. Io vorrei sapere se hai letto anche quell'altro. Sì, infatti, è quello che ho detto anch'io. L'ho detto anch'io in apertura, ho detto avrà letto anche quella polacca per fare un confronto, quella cilena. Purtroppo è un... Anche lui è... Segue l'onda dei luoghi comuni di questa, che è una brutta italietta, questa Italia di quelli che si... No, ma la domanda vera che tutti si fanno è questa: ma lo fa per un qualche interesse nascosto? Perché, cioè, no, che io non capisco... Non tanto nascosto. E cioè? E cioè sta con un potere che è padrone di tutti i mezzi di cui lui deve disporre per fare il tuo lavoro. Eccoli. Allora proprio c'è un conflittone di interessi. Carla Rocchi, conflittone nel senso, cioè lo fa per un interesse abbastanza chiaro. Questo appare piuttosto evidente, soprattutto ai suoi sodali di sinistra. Eccolo là, Carla perché Rocchi. Aspetta, mi interessa sapere Carla Rocchi che ne pensa su questo, che pensa che lo faccia per un interesse. Intanto. Io penso che sì, certamente che lo faccia per una sua ragione, ma quello che è un po' malinconico è che non convince. Cioè le persone possono avere qualunque idea, anche la più strampalata, e questa non è detto che sia strampalata del tutto, però sentire lui che dice questo... non convince. Suona un po' così, poi vero o falso perché lo faccia o no, però non è che dice, oh, l'ha detto Benigni, guarda, ha ragione, tutti ci domandiamo, no, ha ragione, ma perché lo fa? Cioè, al senso, esatto, sì, questo è effettivamente da riflettere, perché tutti non si concentrano sul sì, ma si chiedono il perché di una giravolta, in sì, qualche modo. È come un cassetto sulla lavagna, è, una è vero, è vero, brava Rocchi, promossa, Bianconi c'ha il raffreddore, però l'ha promossa, sì, brava, perché ha dato proprio il senso di quello che avrei dovuto dire io. Ecco, perfetto, l'interprete di Maurizio Bianconi. No, avrei dovuto dire io, perché effettivamente il sentimento è quello. Dice una cosa che in bocca a lui sta male, ecco, basta. Sta male. Non figura. No, io l'unica cosa che dico, è sicuramente un po' strana, è quel dire se vince il no è peggio della Brexit. Figuriamo. No, lì è l'ignoranza che avanza, capito? Addirittura siamo lui non conosce, cioè la Brexit non è per nulla una disgrazia per gli inglesi. Quindi non ha fatto un esame sbagliato, doveva dire come uno tsunami, la Brexit non come l'apocalisse, poteva dire, come sì, l'apocalisse. La Brexit ha voluto fare il corto e invece non c'è capacità nulla. Eccolo là. Vediamo, visto che ha chiamato Crozza, vogliamo sentire un altro pezzo di Crozza, non quello che ha evocato Bianconi, ma sempre Crozza. Tu l'hai visto il confronto Renzi-Zagrebelsky venerdì sera? È stato uno scontro epico. Due mondi a confronto. Twitter contro la Treccani. Io che ero fra gli indecisi, alla fine non avevo dubbi. Al referendum io voto Mentana. Questo Crozza, vabbè. È molto bello. Certo, c'è da dire che una cosa veramente non l'ho capita. I ricorsi al TAR. No, questa è una... Guardi che su questo denuncia, diciamo così, l'estrema preveggenza di chi ha preparato questo colpo mortale per l'Italia e favorevole per Renzi. Questo però è colpa anche vostra, Bianconi. È colpa anche vostra. Il titolo della legge è quello. E non ve ne siete accorti in Parlamento. No, ce ne siamo accorti. Sì, ma nessuno ha detto guardate che tra un anno, che ne so, si voterà e ci fregheranno con un quesito. Nessuno l'ha detto. Però stia attento, Milan, che l'altra volta, pur essendo il titolo della legge diverso, il quesito era stato scelto come il cambiamento dell'antot della Costituzione, era esplicato quello che era. Sì. E che è facoltà di chi costruisce il quesito farlo in un modo e in un altro. Ma come l'ha fatto lui è perfettamente legale. È perfettamente legale. Ma infatti, Carla Rocchi, via il TAR. Si dice bisogna eliminare il TAR, invece qua andiamo al TAR. Se nessuno fa ricorso, il TAR che ci sta a fare? Guarda che questo è un paese buono, generoso, ci si preoccupa di tutti. Se nessuno fa ricorso al TAR, qualcuno si potrebbe chiedere che ci sta a fare il TAR. E quindi sì, però c'è da dire, uno può fare tutti i ricorsi che vuole, ma in questo caso, infatti il ricorso secondo me perderanno, come ci dice anche Bianconi, può essere una cosa che dà fastidio, eccetera, ma hanno riproposto nel quesito il testo approvato della legge approvata in Parlamento. A norma di legge non c'è nulla da dire, nulla da eccepire. Guardate che pur di far parlare di sé la gente fa qualunque cosa, cosa, perché... Io adesso non so chi sono i proponenti, non lo so, non mi sento male per questo, però voglio dire, fare questo ricorso significa che chi lo propone poi viene invitato a qualche trasmissione, va a qualche dibattito, poi magari avrà anche l'intimo convincimento, però ormai non si tralascia niente pur di avere quel, non dico quarto d'ora, ma quei tre secondi di celebrità. Ci mancava il ricorso al TAR, ma qui adesso arrivo in un ambito in cui Bianconi sguazza. Ieri Bianconi, a un certo punto io mi sveglio alle 5 del mattino, prima cosa che faccio guardo il cellulare, nel senso che guardo Twitter, guardo se è successo qualcosa, e ieri c'era Bianconi già che twittava la foto e l'apertura del Fatto Quotidiano alle 5 del mattino. Ho detto, ma che vita c'ha Bianconi? Questo è il primo pensiero. Era sveglio dalla sera prima. Questo è il primo pensiero che ho avuto. Dalla mattina, vero. Questo è il primo pensiero che ha avuto. Alle 4, tipo, no? E ovviamente twittava il fatto che c'è una prova, il patto tra Berlusconi e quindi Mediaset e Renzi per in realtà spingere verso il sì, perché è il patto famoso tra Berlusconi e Renzi, mai rotto, tutta una farsa che Verdini abbia lasciato Berlusconi. L'ha visto ieri? L'ho visto ieri in che senso? Che senza Verdini andavano a fondo. Ah sì, ha votato il DEF. Ha votato il DEF. Sì. Beh, Verdini infatti sta con Renzi, no? Ma lei dice che, sì, lei dice che in realtà Verdini non ha mai litigato con Berlusconi, è tutta una farsa, ed è Berlusconi che sta con Renzi. È logico. Attraverso Verdini. È logico, ma com'è logico? No, perché c'ho questa pagina del Messaggero, ecco il patto governo Berlusconi che spaventa il fronte del no. Ma allora è vera questa cosa? È vera. È vera. L'unico che ne... E lei si sveglia presto la mattina, chi si sveglia presto piglia i pesci, ma lei questa la capisce proprio. Non la capisco. Un pesce che lei non prende. Ci sono interessi superiori alla politica. E sono di tutta evidenza. Guardi che Berlusconi se n'è andato in America perché poverino non stava benissimo. Sì. Ma pur di non fare la campagna elettorale. Ed è logico. È logico. Però le persone che votano per Berlusconi siccome non la possono dire chiara sta cosa, non la possono dire chiara a nessuno, le persone che gli elettori di Berlusconi non vengono influenzati da questa cosa. Cioè la questione è effettivamente questa, Bianconi: se ufficialmente Berlusconi sta per il no, poi non compare, ma ufficialmente uno che è berlusconiano in teoria segue questa. E se no dovrebbero dirlo, guardate che fate finta. Lei che a che scuola fa? No, a che scuola? Lei che ha la campanella al naso anche lei quando fa. Lei è provocatorio. No, perché Berlusconi non ha contenuti permanenti, ha contenuti dichiarati, quello che fa lui. Io ho fatto con Berlusconi la campagna per la Polverini e nel Lazio, senza partito. Sì. Detto, ha vinto, ma 40 giorni prima era sott'olio. Cioè, voglio dire, quanto dichiara Berlusconi all'interno di una campagna elettorale, ancorché ottantenne, ma ammesso, è straddeterminante. Appunto. Quindi averlo o non averlo in piazza significa avere o non avere il sì o il no. Ah, quindi se non si mostra in piazza a dire no. L'elettore moderato, filo governativo, che ha capito come ha fatto a votare Monti, Letta, quei centristi che stanno così un po' dentro alla Tajani, tanto per capirsi. Sì. Addetti ai lavori, è logico che siano orientati verso sì, specialmente se c'è questa campagna terroristica. E secondo lei, Berlusconi si guarderà bene dal andare anche solo a fare mezzo comizio a dire ma no? Ma che scherza, ma lei li guarda Canale 4, di come si chiama, 5, 6, di Italia 1, sono praticamente integralmente schierati. Tutti schierati. Fatto evidente, non c'è dubbio. Allora, ieri abbiamo fatto un convegnetto. Aspetti, no, me lo dica tra un attimo, devo andare al traffico, poi il convegnetto. Alino, dai, fanno il balabio, sì, manda il traffico. Italiani, ricordatevi che tutti i partiti potrebbero in qualche caso cambiare la Costituzione, non un burattino che non è stato nemmeno votato. Ma vi rendete conto in che mani stiamo mettendo l'Italia? E c'è qualcuno che ancora parla bene dei 5 Stelle? Alessandro, scusa se ti disturbo di prima mattina, ma volevo capire una cosa. Ma chi è questo Don Livio Fanzaga che tutte le mattine occupa un po' di spazio che potresti invece dedicare ai tuoi ascoltatori che ti vogliono bene? Non ho dubbi, leggete il Financial Times, come dicono gli inglesi oggi, e vedete quali sono i dubbi, chi vince, il sì o il no. Vedete chi vincerà. La tua idea qual è, oltre a quella del Financial Times? È quella del Financial Times, cioè che vincerà il no perché siamo in mano a dei bluffisti. La verità è questa, Bianconi, adesso la faccio incazzare, la verità, Bianconi, è che lei sta con Beppe Grillo, lei sta con Brunetta, lei sta con Salvini. Vede, io non sto né con, guardi, lo dico a proposito, non sto né con Grillo né con Salvini, ma dico quello che dice Grillo e Salvini da posizioni diverse. Proprio non sto in nessun modo con Brunetta. Proprio niente. Era una provocazione la mia. Il convegno di ieri è quello che mi impediva, dentro Forza Italia, di fare opposizione alla riforma e all'Italico. Impedendomi letteralmente di parlare. Sì, ma ricordiamo che Bianconi è questo il motivo per cui Bianconi ha lasciato Forza Italia. È esattamente questo. Il motivo è che io ero insieme a Capezzone gli unici due che ci opponevamo a queste riforme, e all'Italico, sì, che Forza Italia ha puntualmente votato. Senza i voti di Forza Italia non saremmo in questi punti. Sì, in questi. Sì. Quindi quando si dice che il Forza Italia è per il sì perché era il 100% di Forza Italia che era per il sì. Ora sono tornati indietro. Adesso perché, sono per il no. Perché gli sta apparentemente comodo, se per no perde anche gli ultimi. Comunque, elettori. Insomma, vedete che qua Carla Rocchi riprende in mano il manifesto, non ci resta che piangere Benigni e Renzi. Niente, se è un'Italia così, adesso tutti ripiegati, ricurvi su Benigni, ripiegati, ricurvi sul TAR e via. Passeremo anche questa, Rocchi. Tenga ma sì, ma Benigni si è fatto del male, un po', non tanto, un però po di si male. È fatto un piccolo male. Un po' di perché, male. Perché alla fine lui ha saltellato tutta la vita in maniera magnifica e a questo punto ha fatto proprio un inciampetto. Un inciampetto. Invece di fare un salto ha fatto un inciampetto sul palcoscenico. Sì. E questa cosa le persone che lo hanno seguito sempre se lo domandano, e quindi vuol dire che dal suo punto di vista lui avrà gli spazi, avrà le cose, ma il suo pubblico lo sta guardando con un certo sconcerto. Sì. Io non lo so se valeva la pena esporsi così. Vabbè, io devo chiudere tra un attimo. Volevo fare una domanda. Ecco, prendo e colgo la palla al balzo per la mitica Amina. Sa chi è Amina, Carla Rocchi? Amina ci ascolta da sempre. Ci ascoltava prima da Hong Kong, adesso ci ascolta da Seattle. Sì. Come sì? Come fa a sapere chi è? L'ho sentito sto nome. Ecco. No, è una delfinologa. Cioè studia i delfini, va in giro per il mondo, prima era Hong Kong, adesso è a Seattle. Siamo un po' inalberata perché io in rassegna stampa ho dato la carta costa, cioè l'articolo più inutile trovato sui giornali, per due giorni alla storia del delfino Indy, ha presente Indy, quello a Rimini. Sì. Perché mi sono un po', chiesto, ma come, ma stiamo mettendo in mezzo magistrati, avvocati, ci manca solo che qualcuno lo convochi in aula e dobbiamo poi organizzare una vascona con Indy che va, adesso andrà in Cassazione, non sembra un po' esagerata tutta questa cosa? Ma guarda, io questi sono punti di vista diversi, per me il fatto che se ne parli significa che in qualche maniera la notizia lo merita. Certo, per forza, impegniamo gli avvocati e i magistrati per un delfino. Ma i magistrati e gli avvocati ci stanno per la legge. Se la legge tutela un essere vivente, voglio dire, è giusto che sia così. Ma ho capito, ma poi si ingolfano ma fate un attimo, pensiamoci un momento, quante cause ci sono per un delfino e quante ce ne sono perché il vicino di casa ti rompe le balle perché batte sul muro e... con un chiodo da mezzanotte. Ma convinto, meglio il delfino, meglio il delfino. Bianconi lo conosce, Indy, ne ha sentito parlare. No, non so chi sia Indy, però sul condominio ha ragione Barocchi, perché lei pensa che l'80% del contenzioso civile in Italia è per quello. È del condominio. Sì. Secondo me Bianconi è il classico che o vive in una villetta schiera o se no ha almeno 50 cause con i vicini di casa. Io non litigo mai, sono molto conciliante. Non litigo perché non vale la pena litigare, perché tante volte nelle liti di condominio si scaricano le tensioni familiari e le insoddisfazioni umane, personali, le invidie. Quindi dargli corda e guastarsi inutilmente la vita. Sono d'accordo. Ma com'è quella storia che se incontrava qualcuno che gli parlava di che cosa, gli dava un pugno sul grugno? No, sei Pikachu. Hai mai incontrato uno? Hanno beccato in Norvegia un parlamentare che giocava al Pikachu. Che cavolo è il Pikachu? Ancora, i Pikachu. Trovare no, il Pokémon, come si chiama? Non sapevo cos'era. Il Pikachu è un Pokémon Go, il Pikachu. Ma vado a fare. Cioè, è un mondo che non sa più che cazzo inventare. No? Insomma, più o meno è così, va bene. Vi ringrazio, Maurizio Bianconi e Carla Rocchi. Dai, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Aline Mila, Eli e gestisce una lanciano di... Yamia! 24 mattino. Leggo adesso. Sono le 8, sì, vabbè. Sono le 7:20 minuti, tranquilli, non siete in ritardo di un'ora, sono io che sono sfasato.